Allora, prima di andare avanti con la musica, come vi avevo annunciato, siamo al telefono con un compagno che ci racconta un po'. Oggi, come sapete, alle 9 di questa mattina c'è l'appuntamento per una nuova udienza per i tanti, troppi compagni processati per il 15 ottobre. Allora, ciao. Ciao, buonasera a tutti e tutti. Allora, raccontaci un po' come si sta, così, come si evolve questo, sì, questo processo, insomma. Sì, dunque, oggi c'era la seconda udienza, il processo è iniziato, entrato un po' nel vivo lo scorso 27 giugno, a distanza di 3 settimane c'è stata la seconda udienza. E perché la Corte ha deciso di andare piuttosto velocemente in questo processo di primo grado, tant'è che oggi ha fissato la calendarizzazione delle udienze, mettendone ben 8 entro il prossimo dicembre, per cui i tempi iniziano ad essere piuttosto stretti e c'è una gran voglia da parte della Corte di andare spedita con questo processo. E la prossima udienza sarà il 16 settembre. Oggi si discuteva della ammissibilità delle varie municipalizzate che hanno richiesto di costituirsi come parte civile, e dopo una lunga serie di obiezioni portate avanti dagli avvocati e le avvocate della difesa e una serie di controrisposte da parte degli studi legali che rappresentano il Comune di Roma, l'ATAC, l'AMA, la Banca Popolare del Lazio, il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte ha deciso di accogliere la costituzione di parte civile di tutte queste situazioni municipalizzate, ministeri, per cui ahimè ci troviamo in un nuovo processo in cui queste municipalizzate, ministeri, una banca chiedono tanti soldi ai 18 sotto processo. Sì, questo è stato un po' il clou della prima parte dell'udienza. Dimmi, sì. No, sì, appunto, questa cosa abbastanza allucinante, per cui ormai appunto anche le municipalizzate, che poi nella loro cronaca quotidiana sono veramente degli scolapasta, di ruberie, di magna magna, di servizi negati, insomma è veramente non lo so, non so bene come definire questo ormai loro lo volersi poi automatico. Ormai lo fanno in automatico. Sì, esatto. C'è un processo, loro si costituiscono parte civile, anche se, come giustamente hanno fatto notare tutti i nostri avvocati, le nostre avvocate, non c'era alcun motivo per costituirsi parte civile nello specifico contro i 18, soprattutto con situazioni ridicole tipo l'ATAC, che non erano passati gli autobus a via Cavour, quando in realtà gli autobus non passavano perché c'era la manifestazione, era stato già concordato e preventivato con la questura che aveva autorizzato il corteo, per cui alcune situazioni rasentano veramente il ridicolo, o altre tipo l'AMA, bisognerebbe costituirsi noi contro l'AMA parte civile, visto come gestisce la Mondessa in questa città. Però oltre c'è poco da ridere, perché ovviamente la costituzione di parte civile va di pari passo con le accuse portate avanti dalla Procura della Repubblica. Certo. E sono veramente pesanti, come sappiamo, devastazione e saccheggio, per 3 di loro c'è il tentato omicidio e c'è una richiesta di risarcimento danni altissima. Dopodiché insomma è stato tutto molto molto lungo, c'è stata una serie di obiezioni, c'è stato il rifiuto sempre il pubblico ministero di togliere l'obbligo di firma 3 volte alla settimana che c'ha uno di questi 18 compagni, ormai da mesi si trovano in questo obbligo di firma, 2 si trovano ai domiciliari, ma non c'è intenzione di cambiare la loro situazione di punizione che stanno vivendo. E poi si è arrivati alla decisione di calendarizzare e andare avanti speditamente con il processo. Anche questo, devo dire, è una scelta abbastanza inquietante, come ci dicevi, mettere tutte queste udienze in un lasso di tempo così breve, insomma. Io volevo approfittare anche di te per ricordare una cosa che noi, insomma, bene o male cerchiamo di fare nelle iniziative, insomma, ogni volta che possiamo, da questi microfoni, che è sottolineare l'importanza di una presenza accanto a questi compagni, la nostra, che sicuramente, insomma, è importante nella misura in cui ci si trova direttamente coinvolti in situazioni dove però più o meno, insomma, poi non sarebbe difficile capitare per nessuna e nessuno di noi che poi usiamo scendere in piazza, e quant'è invece l'importanza di appunto di non farli sentire soli, oltre poi casomai alla possibilità di sottoscrivere con loro, per loro aiutare quelli che sono i compagni e le compagne che le seguono nelle spese legali, ma anche direi una presenza umana, no? Tanto parliamo di carcere, appunto ci sono degli appuntamenti sempre fuori delle aule, e, così, insomma, perché tu sottolineassi insieme a me quanto è poi importante non lasciare questi compagni, chi è già in carcere, lo diciamo spesso, di scrivergli, di farsi sentire qualsiasi cosa, una cartolina, un segnale, un messaggio, un biglietto, ma anche nel momento in cui si viene processati, perché si viene messi davanti a una cosa enorme che invece viene ridimensionata al reale nella misura in cui ci si sente meno soli, non ci si sente colpevoli perché uno Stato ti punta il dito, ma sia la forza della ragione, delle nostre idee ed anche della solidarietà che ci facciamo insieme. Certo, questo è fondamentale, perché questi 18 rischiano una condanna pesantissima, insomma, lo abbiamo visto con i compagni di Teramo che si sono beccati 6 anni con rito abbreviato, perché l'ordinario ne avrebbero presi 9, oppure ovviamente la vicenda dei compagni di Genova, per cui questi compagni, è evidente a tutti, anche a chi chiude gli occhi, rischiano una condanna pesantissima, fino a 15 anni di carcere. Per cui, oltre a tutto quello che possiamo fare, che è la raccolta fondi, mettere a disposizione gli studi legali tutte le risorse migliori per poter difendere questi 18 compagni, oltre al fatto che si cerca, insomma, in tutti i modi di costruire una rete politica di mobilitazione affinché l'accusa ridicola, oltre che infamante, di devastazione e saccheggio venga smontata non solo sul piano giudiziario ma anche su quello politico, dobbiamo fare in modo che lo slogan che da tantissimi anni ci portiamo avanti in maniera spesso stantia e ripetitiva, ovvero la solidarietà è un'arma, e allora se è un'arma usiamola bene, la solidarietà politica ma anche e soprattutto umana in questo momento, perché vediamo come questi 18 si trovano in una situazione di difficoltà, di paura, direi, insomma, io se fossi al loro posto avrei molta paura, perché esatto, una condanna a 15 anni magari per aver tirato un sasso, se poi l'hai tirato è la follia, si trova in una situazione anche un po' di isolamento in qualche misura. L'unico modo, una delle cose più importanti che possiamo fare, è quella di non farli sentire soli, in aula, col presidio fuori, scrivendogli, incontrandogli e facendogli capire che insomma i prossimi anni con il processo fino alla Cassazione saranno pesanti, saranno brutti, ma per fortuna non sono soli. Se veramente questo slogan lo tramutiamo in fatti, azione e realtà, allora abbiamo costruito una rete di solidarietà vera che pulsa, che si muove, altrimenti stiamo purtroppo così arrancando con gli slogan. Va bene, io non so come ringraziarti, e appunto poi ci sarà modo di risentirci, anche di riparlare di queste udienze. Intanto io adesso credo che quello che abbiamo appena fatto sia l'appello più importante, credo. Esatto, ci proviamo. Dai, allora grazie ancora. Buona serata, ciao. Ciao, ciao.